Sono verdi gli alberi e rose fiocchi in maternità. E per te che il sole brucia a luglio, e per te tutta questa città. E per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. E per te il 13 dicembre, e per te la gamba nella scuola. E per te ogni cosa che c'è in nana. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. E per te che a volte piove a giugno, è per te, è per te. Per te lo scodinzolo del cane, è per te, è per te. Per te ogni cosa che c'è in me. Per te ogni cosa che c'è in me. Il profumo delle stelle, è per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti, è per te ogni cosa che c'è, nina na. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. E per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza. E per te che il mare sa di sale, e per te la notte di Natale. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. Per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. Na na na na na na na na na na na. Per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. E per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. Thank you.